me. Quello che viviamo io e te, l'equilibrio instabile perché il giullare crede in fondo che la nostra storia più non c'è. Le carezze sento su di me, c'è di amore all'odio, sai perché? Può dividerci se vuoi, amo la tua vita più di me, Amleto sono io per te. Pensiero elaborato.